la voglio andar. Sento dire son poca cosa, ma in America no e poi no. Cento lire son poca cosa, ma in America no, ma in America.